Beh, è uno dei suoni più lancinanti di sempre, quello di Lastmord, creatore di un drone veramente nero pece, e anche caposcuola di un suono che per tanti versi poi si è fatto anche manierato. Se vogliamo, lo stesso Lastmord diventerà, e lo è ancora, un curatore di suoni per immagine, anche per cinema hollywoodiano, come il suo sodale del SP Cape, proprio dove mosse i primi vagiti musicali, appunto Lastmord, proprio con SPK e Graham Revell. E questo viaggio, insomma, dentro queste profondità, queste oscurità, queste anche magistralità espresse non per fare i caposcuola o per creare appunto un suono che potesse essere chissà che rispetto appunto magari una nicchia o altro, ma proprio per descrivere, per esprimere anche, insomma, da un suono impressionistico diventa un suono decisamente espressionistico nella sua appunto deformazione. Sicuramente Lastmord diede anche molte corde, seppure insomma corde che portano verso gli abissi, quelli più profondi, e i meandri del Maelstrom, insomma, e anche a Cold Mid Industry, etichetta di culto, se non fosse altro che anch'essa, e forse più delle altre, insomma, diventerà assolutamente manierata nel corso degli anni 90, ma i primi lavori sono sicuramente eccezionali nel saper rendere veramente ancora più profonda, ancora più abissale una materia sonora che abbiamo già trattato in questa prima parte, seconda parte, insomma, che ha iniziato appunto con il ponte di Lastmord e le sue eresie, e che appunto con Brighter Death Now arriva veramente a punti forse di non ritorno, in questo senso anche si va verso la maniera, perché poi dopo questo disco The Great Death, quindi non veramente anche il titolo non dà più nessuna strada percorribile, appunto si arriva a una sorta di binario morto, ma poco prima di questo binario morto c'è appunto questo buco nero incredibile, edito in doppio CD, questo Great Death, che è veramente uno dei momenti più allucinanti, più anche insomma sonoricamente, e anche la visione che appunto accompagna il suono, tra i più neri, anche con queste strane ombrature rosse, proprio perché si va verso anche un suono che è talmente, insomma, incattivito, è talmente preso dallo zolfo, insomma, che vuol creare, che appunto crea delle strane veramente sensazioni e anche striature, proprio in termini anche quasi visive, se dovessimo, insomma, immaginare queste musiche inimmaginabili, impossibili, chissà. Brighter Death Now, appunto, dalla loro grande morte, The Great Death. Thank you. quasi a voler chiudere un ciclo per poi aprirne un altro. Abbiamo iniziato con Bianchi e subito dopo in continuità Zovit Friends. Beh, con Zovit Friends si chiude, ce l'abbiamo ancora in sottofondo, un periodo piuttosto importante legato a quel suono che fu definito post-industrial da molti, che partiva insomma da più o meno metà degli anni Ottanta. In effetti il percorso l'abbiamo iniziato con l'82, con i sentori, i primi sentori di questo grande mutamento, anche se poi è un grande mutamento che però avviene in maniera molto sotterranea rispetto insomma a tante produzioni che stavano avendo anche un riscontro, se vogliamo, riverberato in termini di successo. Se pensiamo, prima abbiamo citato la Mute, certo tecnopop virato industrial riusciva addirittura a entrare in molte case delle adolescenti e riusciva appunto a vendere, seppur insomma per certi versi edulcorato, non tanto con la Mute ma con altre faccende. Ma poi ci sarà il grande mutamento della techno e quindi insomma quel suono verrà portato avanti in maniera radicale per altri versi, per altre gestioni, diciamo così, della faccenda tecnologica. Ma appunto in termini sotterranei, da questo 82 di Maurizio Bianchi, di Zovit Friends, si arriva appunto passando da Cranium, Crust, Nocturnal Emission, Last Mord, Brighter Death Now, arriviamo di nuovo appunto a chiudere la faccenda con Zovit Friends, un disco del 93 che era What Is Not True, disco eccezionale nel suo veramente aprire la strada di quello che da lì a pochissimi mesi sarà chiamato Isolationism, che vedrà una compilation tra l'altro edita insomma dalla Virgin, di quel suono che anch'esso in maniera sotterranea attraverserà buona parte delle musiche alternative o antagoniste addirittura dall'ambient a certe elettroniche glitch mai domate, e soprattutto arriverà al drone degli anni zero che ci porta appunto ai nostri giorni e che sta dando insomma grandi filiazioni, seppur filiazioni insomma decisamente deformi. Ma d'altronde insomma avendo questi tipi di immaginari, avendo questo evidentemente insomma questo anche volontà di scendere nel profondo, anche in un profondo quasi imprescrutabile o indefinito nel suo farsi veramente tenebroso, anche non è un puro gesto come abbiamo sentito questa sera e ancora per una buona mezz'oretta sentiremo, ma è proprio una sorta di esplorazione, di speleologia forse, forse citando insomma altri momenti insomma di deep listening, no? Prima citavamo insieme a Zovit Friends un'altra grande formazione e progetto nata da McKenzie insieme tra l'altro a Watson, un ex Cabaret Voltaire, e Fair Trio fino a, veramente ai nostri giorni porta questo strano e assurdo verbo preso anche e trattandolo da invenzioni scientifiche, da così veramente momenti patafisici quasi, con tanto insomma anche di volontà appunto decisa di McKenzie, addirittura proprio di tracciare come appunto assolutamente indiscutibile la scientificità di certe teorie che appunto hanno sul serio dell'assurdo. Se voi andate a prendere insomma qualche libretto di Afel Trio, insomma vi divertirete, per altri versi insomma vi inquieterete, ma tendenzialmente insomma è veramente una volo oppure un grande sprofondamento. Ecco, McKenzie nel 93, anno appunto del disco che abbiamo tra l'altro ascoltato, di Zoe Friends, What Is Not True, nel 93 anche egli insomma in un momento di grande vena creativa e di illuminazione, se così potremmo definirla, musicale, e insieme a Karkowski, altro guastatore, e non solo, anche sperimentatore elettroacustico, uno dei grandi sperimentatori delle possibilità del suono portato all'estremo, delle massime esplorazioni tra anni 90 e anni 0, con appunto Karkowski. McKenzie mise su il progetto Cosmic Trigger soltanto per un disco, ma un disco sul serio eccezionale, anche per il trattamento, ora ci vuole proprio del suono concreto, e qua il suono polare viene manipolato, ma veramente in maniera assolutamente assurda, e non è soltanto questione di acusmatica, si va anche proprio nel mondo pazzesco e pazzoide di McKenzie, quindi di scienziati probabilmente inesistenti e di teorie altrettanto tali. Ci andiamo ad ascoltare appunto questo Cosmic Tiger con questa esplorazione polare dal loro appunto Polar Region del 1993. quasi naturalmente siamo passati dalle regioni polari, Polar Region appunto di Cosmic Tiger di Mackenzie e Karkowski, due momenti insomma incredibili di incontro insomma tra personaggi che sembravano insomma piuttosto lontani, un sperimentatore legato alle correnti della neoavanguardia come Karkowski, quella psicoacustica, e invece l'inventore di psicoacustiche come Mackenzie, che insomma con Affair Trio negli anni 80 aveva creato un suono industrial piuttosto astratto, quasi metafisico per molti aspetti. E concludendo questo percorso chiaramente con il mixato di Cosmic Tiger, Thomas Conner, Permafrost, per forza insomma veniva, come dire, appunto naturale la continuità gelante, raggelante di certi scenari musicali. Conner, d'altronde l'abbiamo trovato anche per far capire poi dentro gli anni 90 quali sono state poi anche le molle che hanno fatto cambiare molte delle musiche. Conner l'abbiamo trovato nei Porter Riggs addirittura la scorsa settimana nel Techno Disaster che abbiamo creato qua a 451 frammenti sonori, con un suono dub techno noise veramente aberrante nel suo essere così allucinatorio. E invece con Permafrost si va in uno dei grandi gioielli del suono chiamato isolazionista. E appunto, proprio per concludere 451 frammenti sonori in queste good vibration che dagli anni 80 in poi si trasformano in bad vibration, in dead ambient, industrial ambient, insomma ne abbiamo detto un po', se ne possono creare anche vari. Nel frattempo vi invito anche a leggere un libro che fu insomma lungimirante perlomeno e non solo, Transient Drone, scritto da Gino Dal Soler e Alberto Marchisio, edito nel 1996, che già prefigurava appunto, riuscendo a descrivere il presente ma anche appunto creando un ponte rispetto al drone che da lì a poco, insomma dalla fine degli anni 90, si sarebbe per molti aspetti esploso anche in termini insomma di produzioni sempre sì sotterranee, ma di certo insomma anche vaste non soltanto in termini di ricerca sonora ma anche di quantità, quindi non solo qualità ma anche quantità. Io vi lascio con Isolationism appunto a concludere in maniera insomma quasi la palissiana la faccenda di questa sera, che sarà comunque ripresa mercoledì prossimo dentro un prossimo detta ambient appunto di 451 LUL, progetto di Mick Harris. Magari da queste parti insomma non dovremmo proprio dire che è Mick Harris, perché l'abbiamo veramente ascoltato e riascoltato. Con LUL no, mi sa che è una faccendina che non abbiamo curato. Abbiamo tanto curato insieme a Elisio Scarpa la faccenda legata agli Scorn, faccenda poi di Mick Harris che può passare anche da Napalm Death, da Extreme Noise Terror, ma qua c'è l'implosione del suono grind, l'implosione del dub industriale e del di fatto potenza industriale, un'esplosione interna veramente di grande portata. LUL l'andiamo a prendere appunto da Isolationism, proprio il disco con cui rinizieremo anzi la settimana prossima in questo viaggio verso gli abissi sonori. Un saluto da Max Macchia, stasera non ve lo dico perché insomma non è proprio il caso di fare i bravi, soprattutto con queste musiche. Alla prossima.